è arrivato il maestro. Signori e signori, Gigi D'Agostino. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? Vorrei dedicare uno dei tuoi brani al mio amico Luca di Liscate. Questo mese compie gli anni. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade alle persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare. D'Agostino, un modo nuovo per entrare nel mondo dei balocchi. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale.

pomeriggio di Scassando Chi. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors on va coucher dehors, sous des ponts d'or, trop reconstruits pour aller de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du temps, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du temps, c'est le living, living, living, living room. Nous sommes tous nés, mon ami. Nous sommes tous vivants, c'est inscrit dans notre œil, tu vois, au fond, ça lui d'une envie de vivre, d'une envie de parcourir le monde, cette bonne terre si gironde. Mais non, voilà qu'on en gronde, car sans laisser passer, faut pas se laisser aller à rêver d'une autre vie. Mon ami, non, non, non, non, faut pas rêver, car pour rêver, faut des laisser passer du papier pour passer sa vie de l'autre côté du pont. Des ponts d'or dehors, y'en a des tonnes. C'est pas qu'on les ignore, car on les voit souvent passer de leur cuisine à leur living, living room. C'est pas du temps, c'est pas du temps, c'est le living room des vieux singes savants, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du temps, c'est le living, living, living, living room. C'est pas du temps, c'est le living, living, living, living room. Guardo di là, ma vengo di qua. È il momento della pubblicità. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Poco, molto poco, ma io so poco, ma penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi niente. L'uomo sapiente. Penso tanto, ma so poco, molto poco, anzi, niente, l'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dei fenomeni. Tanto, poco, niente, so molto poco, anzi, niente, l'uomo sapiente. Nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. L'uomo sapiente, vino. Aristotile, go. e nella successione dei fenomeni. Violento da paura, rimbalzando per la casa e ascoltando il poeta che ci dà dentro. Sì. Tiziana è al cammino del Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarro. Il cammino di Gigi.

Bim, pau, passa, cabaça. Bim, pau, a cabaça, arau. Officina emotiva. Sabato 10 febbraio 2007. Ore 22:30. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Metropolitan, Casteggio, Pavia. Il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi, camminare con te è un sogno ad occhi aperti. Baci, Katia e Nancy. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Pota zio G. Vorrei ascoltare Walking on the Sky. La dedico alla mia Giulia, perché sono 2 anni e mezzo che mi fa sentire sulla luna. Rive, da Arcello, Alessandria. Sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O. Officina emotiva. Domenica 11 febbraio 2007, ore 18. Officina emotiva. Con Gigi D'Agostino in concerto mentale nella sala sperimentale. Presso la discoteca Pascià, località La Pineda, Tarragona, Spagna. Gigi, sono Marzia. Suonami una di quelle canzoni che fan venire la pelle d'oca. Voglio dedicarla al mio Pino di Torino, che ho conosciuto da poco. Lascio a te la scelta del brano, tanto sono tutte bellissime. Grazie, maestro. Like a river, ciao Gigi, sono Giampi da Pozzo, Perugia.

sono Roberto di Firenze. Vorrei un sogno, perché la mia ragazza mi ha lasciato, ma io di lei ho bisogno. Sono Giuseppe da Isernia. Volevo dedicare Solo in te al mio grande amore Mary e dirle che è la mia sola ragione di vita. Grazie Gigi. Volevo dedicare Perché di te ho bisogno al mio tesoro Angela e dirle: questi giorni passati insieme sono stati stupendi. Angela, sei nel mio cuore. Tony da Pianezza, Torino. C'è qualcosa di strano nell'aria, forse solo dentro me. Una cosa che col tempo varia e non sta ad aspettare. So che il tempo è passato ed io adesso c'è, sempre con te. Dedico una canzone che vuoi tu a Maria Stella di Mezzana Bigli, Pavia, dalla sua mamma. Baci. Thank you.